amica la luna, che culi il nostro segreto e che ci porti fortuna. Mamma, mamma, non mi ama, secondo un fiore, sono di amore, è un fuoco acceso, richiama le stelle, brilla sulla pelle, e il giorno si spegne. Chiedo alla luna di restare un po' con noi, di cullarci più di ieri, fino a non svegliarci. Più di ieri, fino a non svegliarci mai, come se